aggiusti un po'. Nello specchietto vedi un mostro tu, ma non è il fuori a preoccuparti, no. È tutto il resto che ci butta giù. Un conto è parlarne con le amiche tue, ma fare l'amore se soltanto un due. Poi l'esperienza c'è o non c'è. La prima volta può deludere, dicevi fa piano ed io pensavo a me. Mi chiedi persino se sei frigida, volevi soltanto andassi via da te. Se sei andata in crisi c'è un perché, tu eri bambina e non lo sai più, e non è come immaginavi. Fuori in tempesta siamo noi, fuori di testa adesso sei, e certamente mi odierai, amore. Dai, dai, dai, perché se hai detto una bugia, quelle menate a casa mia l'avevi fatto già. Andiamo al centro, passeggiamo, vuoi? E da una vetrina forse scoprirai che le unghie a pelle non ti mangi più, e all'improvviso capiremo noi che non è un problema di verginità. Si è certo più donne quando non sia, ma quel che graffia dentro è crescere. Siamo